Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Alle 10, mentre il cannone tuonava per espugnare il Faubourg Saint-Antoine, Federico arrivò finalmente a casa di Dussardier. Lo trovò nella sua mansarda che dormiva disteso sulla schiena. Dalla stanza accanto venne fuori a passi felpati una donna. Era la Vatnaz. Prese Federico e gli spiegò com'era andato il ferimento di Dussardier. Sabato, in cima a una barricata, un ragazzetto avvolto in una bandiera tricolore gridava alle guardie nazionali: «Avete il coraggio di sparare ai vostri fratelli?» Dato che continuavano ad avanzare, Dussardier si era sbarazzato del fucile, aveva spinto da parte gli altri ed era riuscito a buttar giù l'insorto strappandogli la bandiera. L'aveva ritrovato sotto le macerie con un pezzo di piombo nella coscia. Era stato necessario incidere la piaga per estrarre il proiettile. La Vatnaz, sopraggiunta la sera stessa, non l'aveva più abbandonato. Per 2 settimane Federico non lasciò passare una mattina senza venire a trovarlo. Un giorno fece un accenno alla devozione della Vatnaz, ma Dussardier alzò le spalle. «Figurati, lo fa per interesse. Credi? Ne sono sicuro». E non aveva voluto dare altre spiegazioni. In effetti, lo colmava di premure al punto di procurargli i giornali che celebravano la sua bella azione. Sembrava che omaggi del genere lo infastidissero. Confessò anzi a Federico i suoi rimorsi di coscienza. Forse avrebbe dovuto stare dall'altra parte, con la gente in camiciotto. In fondo era vero che gli avevano fatto una quantità di promesse senza poi mantenerle. Gli altri, i vincitori, detestavano la Repubblica. E poi si era stati ben duri nei loro confronti. D'accordo, avevano torto, ma non proprio del tutto. E quel bravo ragazzo si torturava l'idea di aver potuto combattere contro la giustizia. Senecal, rinchiuso alle Tuileries sotto il livello del fiume, non soffriva angosce del genere. Erano là in 900, ammassati alla rinfusa nella sporcizia, neri di polvere e di sangue raggrumato, tremanti di febbre e ululanti di rabbia. Quelli che lì, in mezzo agli altri, crepavano, non venivano neanche a prenderli. Quando i prigionieri si avvicinavano a uno spiraglio, le guardie nazionali, messe a sorvegliare che non scuotessero le inferriate, vibravano colpi di baionetta a caso, nel mucchio. Si comportarono generalmente in modo spietato. Quelli che non avevano combattuto volevano mettersi in vista. Era un rigurgito di paura. Ci si vendicava, tutto in una volta, dei giornali, dei circoli, degli assembramenti, delle teorie, di ogni cosa che era stata, da 3 mesi in qua, fonte di esasperazione. E malgrado la vittoria ottenuta, l'uguaglianza, a castigo quasi dei suoi difensori e a derisione dei suoi avversari, finiva col trionfare. Un'uguaglianza da bruti, un livello comune di sanguinose torpitudini, il fanatismo degli interessi bilanciando il delirio del bisogno, l'aristocrazia assumendo i toni furiosi della crapula, il berretto di cotone mostrandosi non meno disgustoso del berretto scarlatto. L'opinione pubblica era in preda al turbamento, come dopo un grande sconvolgimento naturale. Ci furono uomini d'ingegno che diventarono cretini di colpo e per tutta la vita. Il vecchio Rock s'era fatto coraggiosissimo, per non dire temerario. Arrivato a Parigi il 26 con i suoi concittadini di Nogent, invece di tornarsene a casa con loro, s'era aggregato alla Guardia Nazionale di stanza alle Tuileries. E fu ben contento d'essere messo di sentinella davanti alla terrazza sul fiume. Così almeno li teneva sotto di sé, quei briganti. Godeva della loro disfatta, della loro abiezione, e non poteva tenersi dall'insolentirli. Uno di loro, un adolescente dai lunghi capelli biondi, mise la bocca contro le sbarre per chiedere del pane. Rock gli ordinò di tacere, ma il giovane ripeteva lamentosamente: «Pane, non credete che ne abbia io?» Altri prigionieri s'affollarono al pertugio con le barbe irte, gli occhi fiammeggianti, spingendosi l'un l'altro e gridando «Pane!». Il vecchio Rock fu indignato nel vedere che si metteva in dubbio la sua autorità. Per spaventarli li prese di mira col fucile. Ma sollevato contro la volta dalla folla che lo schiacciava, il giovane gridò ancora una volta con la testa rovesciata «Pane!». «Eccolo, tieni!», disse il vecchio Rock lasciando partire il colpo. Vi fu un urlo enorme, poi niente. Sull'orlo del pertugio era rimasto qualcosa di bianco. Ciò fatto, Rock se ne tornò a casa sua. Era proprietario in Rue Saint-Martin di un edificio nel quale s'era riservato un pied-à-terre. e i danni causati dalla sommossa alla facciata del suo immobile avevano contribuito in non mediocre misura a inferocirlo. L'azione appena compiuta lo pacificava come una sorta di indennizzo. Fu sua figlia in persona ad aprirgli la porta. Gli disse subito che la sua assenza così lunga l'aveva preoccupata, aveva temuto una disgrazia, una ferita. Questa prova d'amor filiale commosse il vecchio Rock. Le esternò il suo stupore che si fosse messa in viaggio senza Caterina. «L'ho mandata a fare una commissione», disse Luisa. E si informò della sua salute, di una cosa e dell'altra. Poi, con aria indifferente, gli domandò se non avesse incontrato per combinazione Federico. «No, assolutamente no». Era per lui, soltanto per lui, che aveva fatto il viaggio. Qualcuno veniva avanti nel corridoio. «Ti chiedo scusa, papà», e scomparve. Caterina non aveva trovato Federico. Era via da parecchi giorni. Luisa ricomparve tutta tremante. Non riusciva a parlare, s'appoggiava contro i mobili. «Ma cos'hai? Cosa succede?» esclamò suo padre. Gli fece cenno che non era niente e riuscì, con un grande sforzo di volontà, a riprendersi. Dalla trattoria di fronte portarono la minestra, ma il vecchio Rock aveva subito un'emozione troppo violenta. Non gli andava giù e al dessert ebbe una specie di svenimento. Fu mandato in gran fretta per un medico che prescrisse una pozione. Una volta a letto, Rock volle quante più coperte possibile per riuscire a sudare. Sospirava, si lamentava. «Grazie, mia buona Caterina. Un bacino al tuo povero papà, pollastrella mia. Ah, queste rivoluzioni!» Sua figlia lo rimproverava d'essersi ammalato a forza di tormentarsi per lei. «Sì, hai ragione», le rispose. «Ma è più forte di me. Sono troppo sensibile». Nel boudoir, seduta accanto alla nipote, la signora D'Ambreuse ascoltava i racconti di Rock sulle sue fatiche militari. Si mordeva le labbra, sembrava che stesse poco bene. «Oh, è una cosa da niente, passerà». Poi, graziosamente, «Avremo con noi a pranzo una vostra conoscenza, il signor Moreau». Luisa trasalì. «E in più solo qualche intimo, de Sisi fra gli altri». E si mise a far l'elogio dei modi, dell'aspetto e soprattutto dei costumi di lui. La signora D'Ambreuse era più vicina al vero di quanto non credesse. Il visconte aspirava al matrimonio con Cecilia. Ne aveva parlato a Martinon. Era sicuro di piacere a Cecilia e ai suoi parenti. Per arrischiare una confidenza simile, doveva aver avuto ragguagli molto rassicuranti circa la dote. Ora Martinon credeva di sapere che Cecilia fosse la figlia naturale di D'Ambreuse. Buttarsi a chiedere la sua mano sarebbe stato probabilmente osare un po' troppo. Così Martinon, prima d'ora, s'era barcamenato in modo da non compromettersi, senza contare che non sapeva come sbarazzarsi della zia. Ma le parole di Sisi lo spinsero ad agire. E aveva già fatto la sua domanda al banchiere, il quale non ci vedeva alcun ostacolo, e proprio adesso ne aveva informato la moglie. Comparve Sisi. La signora si alzò dicendo: «Lei ci trascura, vero Cecilia?» Nello stesso momento entrava Federico. Finalmente la si rivede, esclamò il vecchio Rock. Io e Luisa siamo stati 3 volte a casa sua per cercarla questa settimana. Federico li aveva evitati con cura. Si giustificò dicendo che passava giornate intere al capezzale di un compagno ferito. Improvvisamente apparvero Arnoux e Madame Arnoux. Federico ebbe una specie di vertigine. Rosanette l'aveva infastidito tutto il pomeriggio con la sua ammirazione per i militari e il suo vecchio amore riavvampò di colpo. Il maggiordomo venne ad annunciare che il pranzo era servito. La signora D'Ambrese ordinò al visconte con un'occhiata di prendere il braccio di Cecilia. Sussurrò a Martinon: «Miserabile!» e passarono tutti in sala da pranzo. Federico si trovò seduto accanto a Madame Arnoux. Aveva un vestito nero di lana liscia e sottile, un cerchio d'oro al polso e, come la prima volta che era stato a pranzo a casa sua, qualcosa di rosso nell'acconciatura, un ramoscello di fucsia intrecciato ai capelli. Federico non poté trattenersi dal dire: «Da quanto tempo non ci vediamo?» «Già», rispose lei freddamente. Cercando di attenuare con la dolcezza del tono l'impertinenza della domanda, le chiese: «Ha pensato a me qualche volta? E perché avrei dovuto?» Quelle parole lo ferirono. Forse ha ragione lei, tutto sommato. Ma, subito pentito, le giurò di non aver trascorso un solo giorno senza essere sconvolto dal suo ricordo. «Non ne credo una sola parola, signore. Eppure lei lo sa che la amo.» Madame Arnoux non rispose. «Lei sa che l'amo.» Taceva ancora. «Va sulla forca, allora», disse fra sé Federico. Alzò gli occhi e vide all'altro capo della tavola la piccola Rock. Le era sembrato carino vestirsi tutta di verde, colore che faceva pugni con il rosso dei suoi capelli. La fibbia della sua cintura era troppo alta, il collettino le incassava la testa fra le spalle. Tanta ineleganza non aveva mancato di influire sul contegno gelido a tutta prima di Federico. Lo stava osservando da lontano, curiosamente, e Arnoux, che era seduto accanto a lei, aveva un bel prodigarsi in galanterie, non riusciva a cavarne 3 parole. Al punto che, rinunciando a riuscirle gradito, si mise ad ascoltare la conversazione. La conversazione intanto s'era riannodata. Circolavano i grandi vini di Bordeaux e l'animazione cresceva. Pellerin ce l'aveva con la rivoluzione per via del museo spagnolo definitivamente perduto. Come pittore era la cosa che l'affliggeva di più. A questo punto Rock gli rivolse la parola. È lei per caso l'autore di quel quadro così notevole? Può darsi quale? Rappresenta una signora in una foggia, come dire, alquanto leggera, con una borsa in mano e dietro un pavone. Fu la volta di Federico imporporarsi. Pellerin faceva finta di non capire. Eppure è proprio opera sua, in basso c'è scritto il suo nome e da una targhetta sulla cornice risulta che il proprietario è il signor Moreau. Un giorno, mentre aspettavano Federico, il vecchio Rocco e la figlia avevano visto in casa sua il ritratto della marescialla. Il brav'uomo l'aveva preso per un quadro gotico. No, disse violentemente Pellerin, è un ritratto femminile. E di una femmina particolarmente viva, aggiunse Martinon. Non è vero, Sisi? Io? Non ne so proprio niente. Credevo proprio che la conoscesse, ma visto che la cosa le dispiace, mille scuse. Sisi abbassò gli occhi imbarazzato. Quanto a Federico, era evidente che il modello del quadro doveva essere la sua amante. Fu una di quelle convinzioni che si formano in un sol colpo. Le espressioni degli astanti la manifestavano con assoluta chiarezza. «Quante bugie mi raccontava», si disse Madame Arnoux. «È per questo, dunque, che mi ha lasciata», pensava Luisa. Federico si mise in mente che quelle storie potessero comprometterlo e una volta in giardino si avvicinò a Martinon per fargli le sue rimostranze. L'innamorato di Cecilia gli scoppiò a ridere sotto il naso. «Ma va, nemmeno per sogno! Anzi, ti può giovare, fatti sotto!» Cosa voleva dire? E poi come mai tutta quella benevolenza così contraria alle sue abitudini? Senza riuscire a venirne a capo, Federico si diresse verso il fondo del giardino, dove si erano sedute le signore. La signora d'Ambreuse, preso da parte Sisi, l'aveva sgridato per la sua goffaggine. Poi, visto Martinon, congedò il visconte e volle sapere dal futuro nipote il perché di quegli scherzi a carico del nobiluomo. Nessun perché. E tutto per di più sembrava fatto apposta per mettere in bella luce il signor Moreau. A che scopo? Nessuno scopo. Federico è un ragazzo incantevole e io gli voglio molto bene. E io anche. Lo faccia venire qui, vada a cercarlo. Dopo due o tre frasi banali, la signora si mise a parlare con leggero disprezzo dei suoi ospiti. Questo equivaleva a mettere lui al di sopra di tutti loro. Federico non mancò di denigrare moderatamente le altre donne, che era un modo accorto di farle dei complimenti. Lei si mostrava volta a volta gaia, seria, malinconica, pensierosa. Le preoccupazioni del giorno non l'interessavano che in modo mediocre. C'era tutto un altro ordine di sentimenti meno transitori. Si disse sfavorevole ai poeti che deformano la verità, poi, alzando gli occhi verso il cielo, gli chiese il nome di una stella. Quel civettare non turbava di certo Martinon, occupatissimo con Cecilia, ma colpiva la piccola Roque che stava conversando con Madame Arnoux, l'unica fra tutte quelle signore le cui maniere non le fossero parse sprezzanti. S'era seduta accanto a lei e, cedendo al bisogno di sfogarsi, «Parla tanto bene, non è vero, Federico Moreau?» «Lei lo conosce?» «Oh sì, altro che, siamo vicini di casa, mi faceva giocare quando ero bambina!» Madame Arnoux le rivolse un lungo sguardo che voleva dire «Non ne sarà innamorata, per caso?» Quello della ragazza rispose senza turbarsi «Sì». «Lei lo vedrà spesso, allora?» «Oh no, solo quando torna a casa da sua madre. Sono 10 mesi che non viene ormai, eppure aveva promesso d'essere puntuale. Non bisogna fidarsi troppo delle promesse degli uomini, bambina mia. Ma lui non mi ha mica ingannata, non più di altre». Luisa si sentì gelare. «Non avrà promesso qualcosa anche a lei, per caso?» La diffidenza, l'odio, le contrassero di colpo i lineamenti. Madame Arnoux ne fu quasi spaventata, avrebbe voluto ringoiare quelle parole. Rimasero tutte e due in silenzio. Federico era proprio di fronte, su uno sgabello pieghevole, e loro continuavano a guardarlo, una contegnosamente, con la coda dell'occhio, l'altra con ingenua sfrontatezza, bocca aperta, al punto che la signora d'Ambreuse gli disse «Si giri dunque, si lasci contemplare!» «E da chi?» «Ma dalla figlia di Roque!» E si mise a prenderlo in giro per l'amore di quella giovane provinciale. Lui si scherniva, cercava di sorridere. «Ma le sembra possibile? Lo lascio decidere a lei. È così bruttina, poveretta!» La sua vanità, tuttavia, era immensamente solleticata. Se ne andavano tutti e anche il visconte, alla fine, si inchinò profondamente davanti a Cecilia. «Signorina, ho l'onore di augurarle la buonasera». «Buonasera», rispose la ragazza seccamente e sorrise a Martinon. Il vecchio Rock, per continuare la discussione con Arnoux, gli propose di accompagnarlo a casa insieme alla signora, dato che erano sulla strada. Luisa e Federico camminavano davanti. Lei aveva preso il suo braccio e quando furono abbastanza lontani dagli altri... «Ah, finalmente! Che brutta serata per me! Come sono cattive quelle donne! Quante arie si danno!» Federico avrebbe voluto difenderle. «E poi potevi anche dirmi qualcosa quando sei entrato, dopo un anno che non ti fai vedere!» «Non è passato un anno», disse Federico, ben contento di coglierla in fallo su quel particolare per evitarne altri. «E va bene, vuol dire che il tempo mi è sembrato più lungo, ecco tutto. Ma era come se tu avessi vergogna di me durante quell'orribile pranzo. Lo so, non sono come loro. Io non ho quel che ci vuole per piacerti». «Ti sbagli?» disse Federico. «Davvero? E allora giurami che non sei innamorato di qualcuna di loro». Federico giurò. «E che ami me soltanto, diamine». Rassicurata su quel punto, si fece allegra. Avrebbe voluto perdersi nelle strade, passeggiare insieme tutta la notte. Gli raccontò la sua partenza, il viaggio da capo a fondo, le menzogne dette a suo padre. «Mi riporta via fra 2 giorni. Vieni da noi domani sera, come per caso, e approfittane per chiedergli la mia mano». Federico non era mai stato più lontano dall'idea del matrimonio, senza contare che la piccola Rock gli sembrava una personcina abbastanza ridicola. Che differenza con una donna come la signora d'Ambreuse! Doveva essere concreto, realista. Oltretutto, aveva rivisto Madame Arnoux. Ciò non di meno la schiettezza di Luisa l'intrigava. Di rimando le chiese: «Hai riflettuto bene a questo passo?» «Ma come?» gridò la ragazza, gelata di indignazione e di sorpresa. Federico spiegò che sposarsi adesso sarebbe stata una follia. «Così non mi vuoi più. Perché non cerchi di capirmi?» La cosa più ragionevole era di pazientare per un po'. Le cose si sarebbero certamente sistemate, lui lo sperava perlomeno, e dato che non trovava altri argomenti, finse di ricordarsi all'improvviso che avrebbe dovuto essere a casa di Dussardier già da 2 ore. Salutati gli altri, si cacciò giù per Rue Hauteville, fece il giro del Gymnase, tornò sul boulevard e salì di corsa i 4 piani di Rosanette. Gli Arnoux lasciarono il vecchio Rock e sua figlia all'imbocco di Rue Saint-Denis. Tornarono a casa in silenzio, lui estenuato dal gran chiacchierare, lei pervasa da un'infinita stanchezza, costretta perfino ad appoggiarsi alla sua spalla. Era l'unico uomo che avesse mostrato quella sera dei sentimenti onesti. La moglie si sentiva piena di indulgenza nei suoi confronti. Da parte sua, Arnoux serbava un po' di rancore verso Federico. «Hai visto che faccia quando si è parlato del ritratto? Ti ricordi quando ti dicevo che è il suo amante e tu non volevi credermi?» «È vero. Avevo torto», disse Madame Arnoux. Non appena suo padre si fu addormentato, Luisa andò nella camera di Caterina e, scuotendola per la spalla, «Alzati su, presto, più presto, vai a cercarmi un fiacre». Caterina oppose che a quell'ora non ce n'erano più, «E allora mi ci accompagni tu?» «Ma dove?» «A casa di Federico». Doveva parlargli, non poteva aspettare, voleva vederlo immediatamente. «Ma ci pensi, presentarsi in casa d'altri così, nel mezzo della notte, e poi a quest'ora starà dormendo, lo sveglierò». «Ma non sta bene per una signorina». «Io non sono una signorina, sono una donna, e lo amo. Coraggio, mettiti lo scialle». Luisa si infilò per le scale come una biscia e Caterina le si lanciò dietro. Raggiunsero la casa di Federico. Luisa tirò il campanello con forza, ripetutamente. La porta fu socchiusa. Alla domanda di Luisa venne la risposta del portinaio. «No! Sarà di sicuro a letto se le dico di no. Sono quasi 3 mesi che non dorme a casa». E lo sportello della guardiola ripiombò di colpo come una ghigliottina. Luisa dovette sedersi su un paracarro. Si prese la testa fra le mani e pianse. Pianse con tutta l'anima. Era l'alba, passava qualche carretta. Caterina la riportò a casa. La sosteneva, la baciava. Le diceva tutte le cose buone che riusciva a cavare dalla sua esperienza. Non bisognava darsi tanta pena per le faccende di cuore. Se perdeva un innamorato, ne avrebbe trovati degli altri.